24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 18 minuti inizia la terza parte di 24 Mattino di questo martedì 7 aprile. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti coloro che ci seguono. Oggi una puntata nella quale daremo ampio spazio al decreto approvato ieri dal governo. Lo faremo con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, che tra l'altro è già in linea con noi. Alberto, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E con Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia, che ci raggiungerà tra poco. 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, e l'800-24-0024 per intervenire in diretta. Cara Maria, prima la però, serata di sempre. Ieri, esatto, un'occhiata a un paio di giornali internazionali, a partire direi da quelli britannici. Beh sì, il Guardian apre ovviamente con Boris Johnson ricoverato in terapia intensiva, come avete sentito anche dal nostro giornale radio. È un po' una tragedia shakespeariana quella che si sta abbattendo sulla vita personale di Boris Johnson, al quale ovviamente tutti augurano una pronta guarigione. Era l'uomo che, nonostante varie avversità, era riuscito a coronare il sogno di una vita, il sogno verso il quale l'aveva spinto il suo ambiziosissimo padre, diventare primo ministro, e c'era riuscito diventando il primo sostenitore della Brexit. Ebbene, dopo aver agguantato il traguardo di una vita, il Covid-19 lo costringe a una pausa nel momento più drammatico anche per il paese, che è in questa fase sembra molto confuso. Prima sembrava dover arrivare l'immunità di gregge, quindi tutti aperti, adesso invece tutti chiusi, con un primo ministro che non è più a Downing Street. È davvero un po' una tragedia, un dramma, mettiamolo così, un dramma. Speriamo si evolva positivamente. Speriamo che si concluda per il meglio. Allora, veniamo alle questioni economiche. Qualche ascoltatore già ci chiede di scuola. Parleremo anche di scuola. Non vi preoccupate, non oggi, non sarà il tema centrale di oggi, ma nei prossimi giorni ci torneremo. Sicuramente torneremo, non, sì. Non c'è problema. Il decreto di ieri, caro Alberto. Alberto Rioli, ci dai innanzitutto un tuo giudizio? Ma insomma, è chiaro che nei volumi dei miliardi di garanzie che sono stati messi in campo è una cosa più che dignitosa, in linea con gli altri bazooka che altri stati europei avevano messo in campo prima di noi. Penso è una strategia un po' alla tedesca, che per, diciamo così, perché per primi loro hanno messo in campo qualcosa che superava i 500 miliardi di garanzie pubbliche, e per la verità con già l'annuncio che potevano anche diventare illimitate, sostanzialmente un po' un intervento alla stile BCE. Bene, noi con questi 400 miliardi di ieri aggiungiamo altre munizioni, 350 che erano già stabilite nel decreto precedente, insomma cominciamo ad avere un pacchetto di garanzie pubbliche per prestiti da gestire a cura delle banche ordinarie, di tutto rilievo, anche perché di tutto rilievo è chiaramente l'ibernazione, il congelamento dell'economia in seguito alla strage che ha fatto il virus proprio nei comportamenti economici, tanto che, come sappiamo bene, in questo momento sostanzialmente nessuno vende, nessuno compra, salvo prodotti di primissima necessità. L'unica cosa che sta effettivamente funzionando è sostanzialmente la catena agroalimentare che appunto rifornisce i supermercati e poco altro, il resto è tutto bloccato. Il tema della liquidità non è un tema astratto, appunto, è un tema che serve come pronto soccorso economico a un sistema della domanda e dell'offerta che si è bloccato, che è rimasto praticamente preda di un maleficio, diciamo la verità, sembra d'essere in un contesto fiabesco, in negativo, se così posso dire. Appunto c'è sostanzialmente il meccanismo normale che governa l'economia, cioè la dinamica tra chi acquista e chi vende, domanda e offerta, che non funziona più, si è bloccato. Questa cosa ha bloccato chiaramente il flusso dei pagamenti e ha bloccato la possibilità delle imprese di avere gli introiti con cui a loro volta far fronte magari a pagamenti di altri fornitori. La catena sostanzialmente del normale funzionamento dell'economia si è spezzata, ma si è spezzata anche, tra l'altro, nel normale funzionamento, oramai quello che è considerato normale, delle grandi catene globali del valore, cioè le forniture tra diversi pezzi di imprese che stanno tra l'altro in stati confinanti o in stati anche molto lontani. Tutta questa cosa che era un meraviglioso portato della globalizzazione, almeno la parte buona della globalizzazione, anche questo si è bloccato quando è andato in tilt il polo, per esempio, automobilistico di Wuhan in Cina. Ecco, Bartolioli, scusa, volevo chiederti una cosa che può interessare gli imprenditori, soprattutto magari i piccoli che ci stanno ascoltando. È vero che avranno diritto all'aiuto pubblico anche le imprese in concordato e quelle con piani di ristrutturazione del debito in corso? Veramente a noi risultava che questa cosa non era stata chiarita dal provvedimento, anzi il fatto che si crei un prima e un dopo, come è normale peraltro in provvedimenti di questo genere. Sembrava da una prima lettura delle bozze che sono circolate ieri che sostanzialmente questo tipo di intervento potesse andare bene solo per le imprese in boni, se non in quelle in fase di ristrutturazione, anche seppur ligie nei pagamenti poi delle varie tranche di mutui o di incentivi per la gestione appunto. Allora della Alberto perdonami, ti interrompo perché abbiamo una persona direttamente coinvolta nei fatti, per così dire. Per Paolo Baretta, sottosegretario all'economia, buongiorno. Buongiorno a voi. È in grado di rispondere a questa domanda? La sentite? No, mi scusi, non l'ho sentito. Se possono accedere ai finanziamenti anche le imprese in concordato? No, c'è una data che è 31 dicembre 2019 che fa un po' da spartiacque. Se a quella data si era in bonis si può accedere ai prestiti, anche se in questi due mesi ci fossero stati dei processi di concordato. Però c'è una data di scrimine, perché altrimenti avremmo aperto ad una situazione di difficile controllo oggi. Questa erogazione che abbiamo messo in campo è notevole, quindi deve coinvolgere innanzitutto l'intero sistema produttivo, eccetera. Per fortuna le aziende principalmente sono in bonus, la grande maggioranza. Ok, questo è un primo punto. Senta Baretta, allora 400 miliardi di garanzie, lo ricordiamo agli ascoltatori, perché alcuni ci dicono, beh, insomma, quindi questi soldi si sono trovati, sono soldi che sono garanzie, cioè non è che lo Stato stanzia 400 miliardi così di botta, un supporto alle piccole imprese rafforzato. E avete idea di lavorare successivamente anche su specifici settori? Ci scrive qualche ascoltatore, per esempio, dal settore del turismo, che sicuramente sarà quello uno dei più colpiti, no, da questa crisi? Sì, quello riguarderà soprattutto la fase della ripresa e quindi il sostegno alla ripartenza di queste delle aziende, soprattutto il settore del turismo in generale, l'alberghiero, tutta la filiera. Però adesso abbiamo preferito un intervento generalizzato, per altri criteri di accesso sono tali che consentono alle aziende più esposte di poter avere dei vantaggi particolari, perché ci vuole una perdita di 25% di fatturato oppure il 200% dei costi del personale. Quindi è un ampio spettro di possibilità di accedere a questi finanziamenti. In più, fino a 25.000 euro non c'è nessuna verifica preventiva da parte della banca e la garanzia è al 100%. Quindi si è tenuto conto anche della particolare situazione che espone alcuni settori come quello che lei ha citato. Tra l'altro li espone anche dal punto di vista del personale, perché molti stagionali del turismo si aspettavano di essere assunti in questo momento e questi saranno anche ci sarà attenzione a loro anche nel provvedimento cosiddetto di aprile. Maria. Sottosegretario, una domanda più politica, perché le cronache di questa mattina riferiscono di tensioni interne al governo tra Partito Democratico e 5 Stelle, soprattutto sul ruolo di SACE, che è entrata in maniera intensa in questa vicenda. Allora, quello che chiedono gli imprenditori italiani e i loro dipendenti è che la liquidità arrivi e che ci sia poca burocrazia. Lei qui a Radio 24 ci può confermare soprattutto che i ritardi, gli impacci burocratici saranno ridotti al minimo e che non ci sarà il braccio di ferro tra due partiti della maggioranza che poi alla fine si riflette in complicazioni che vengono magari a rallentare l'erogazione di questa liquidità? La discussione sulla SACE non riguarda i tempi e le modalità di erogazione, ma riguarda appunto qual era la filiera di intervento, e sostanzialmente la conclusione è molto chiara, cioè ci sono 200 miliardi destinati soprattutto alle imprese interne, ma 200 miliardi destinati per le imprese italiane che lavorano all'estero, e comunque la SACE è il canale principale. Quindi i problemi di velocità di esecuzione non dipendono fortunatamente da questa discussione. Ovviamente a questo punto c'è un ruolo delle banche, perché fino a 25.000 euro non c'è nessuna valutazione preventiva e quindi i soldi devono essere dati senza incertezza. Fino a 800.000 euro c'è una valutazione preventiva, ma che tiene conto dell'andamento dell'anno scorso, non certo di queste settimane che sono quelle più disastrate. Quindi non c'è il rischio burocratico per la parte coperture, bisogna che le banche diano una mano e siano molto, molto coerenti con quanto il decreto ha deciso. E anche Celeri, direi. Ci prendiamo una pausa. Ci prendiamo una pausa. Baretta, Alberto Rioli, rimanete con noi. Una pausa e poi torniamo. Agli ascoltatori dico, domande ne avete? 800 24 0024. Via. Mattino. Andrea dalla provincia di Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Allora, io di professione faccio il commercialista. Questa mattina passerò la mattinata a studiare il decreto e a vedere se c'è qualche opportunità per le mie imprese. Però volevo fare un'osservazione, forse sono fuori dal mondo, ma lo Stato mi dice giustamente di chiudere in quanto per il bene della collettività. E noi giustamente le imprese, i miei clienti chiudono, ma secondo una mia ottica lo Stato mi deve risarcire, non farmi indebitare nuovamente, perché altrimenti non se ne esce più, perché abbiamo avuto ho una chiusura, si perdono quote di mercato, si perdono investimenti, e per rimettere a posto, per cercare di ripartire, mi devo rindebitare. È un po' forte come posizione, Andrea. Baretta, che dice? E anche Alberto Rioli, magari. Prego. Ma noi ci stiamo indebitando tutti, anche lo Stato. Questa manovra che stiamo facendo, il decreto che abbiamo fatto in marzo, quello che faremo tra pochi giorni, il 30 di aprile, sono circa 70 miliardi in un mese di denaro fresco, non sto parlando appunto delle garanzie, solo di quello che ci serve per reggere, e lo stiamo facendo in debito, quindi è una situazione generale, e molte di queste sospensioni sappiamo che non torneranno, quindi in alcuni casi mettiamo in conto una specie di fondo perduto. Cioè, dobbiamo essere tutti coscienti della fase che stiamo attraversando, lo Stato deve stare dalla parte dei cittadini, ma dobbiamo in qualche modo tutti tener conto che avremo un problema generale di debito, lo dobbiamo gestire. Peraltro Draghi è stato chiaro nella sua intervista di qualche articolo di qualche settimana fa. Adesso dobbiamo purtroppo lavorare in debito, lo facciamo tutti, anche lo Stato. Se del resto non è colpa dello Stato il virus, Alberto Rioli. Sì, certo, non è colpa dello Stato, è vero, ma il concetto che sta dietro a questa idea di garanzia della liquidità per le economie ibernate effettivamente è una specie di necessità di circolazione extracorporea rispetto a un corpo dell'economia che è finito in coma farmacologico. Quindi l'idea effettivamente dell'indennizzo per i settori particolarmente colpiti non è così lontana dalla necessità reale. Però qual è il problema? Il problema sono le risorse. Sì, Alberto, ci siamo. Non so cosa è successo. No, credo che sia caduto, probabilmente è caduto Baretta, adesso proviamo a recuperarlo. Ah, okay. Credo. Dicevo, concettualmente l'idea dell'indennizzo ha senso. Però ci vuole uno Stato che abbia uno stato di salute dei propri conti totalmente diverso. Probabilmente la Germania se lo potrebbe permettere, noi no, per i motivi ben noti di debito pubblico e quant'altro. La cosa che manca, probabilmente Baretta se ritorna ci potrà aiutare a capirlo, è a che tasso saranno erogati questi prestiti? È una cosa di cui non si parla mai. Zero, tasso di interesse? Sì. Ma 0,2, cifre simboliche, giusto perché le banche non abbiano argomenti. Ok, quindi 0,2, 0,3%. 0,3 adesso il dettaglio. Okay. Sì, ampiamente sostenibile, insomma, del resto abbiamo il denaro, sì, a costo zero, insomma, quindi certo, in più ci metti anche la garanzia dello Stato, insomma. E sulle durate di questi prestiti, molti ascoltatori, guardi, molti artigiani ci stanno scrivendo sui 25.000 euro, su molte partite IVA sui 25.000 euro, i tempi, sì, di restituzione, certo, di questi prestiti. Sì, questo dei 25.000 euro sarà anche il grosso, perché riguarda soprattutto le piccolissimi, sono 6 anni, ma si può chiedere che la partenza sia tra 24 mesi, quindi sono sostanzialmente 8 anni a partire di fatto dal 2021. Senta, ci sono dei vincoli per questi soldi, al di là di quelli che ha illustrato ieri il ministro Gualtieri, ossia il fatto che le aziende che prendono questi finanziamenti, per esempio, non diano dei dividendi, dei vincoli di utilizzo? Penso per esempio a tutte quelle aziende che devono pagare i fornitori o devono pagare i dipendenti. No, diciamo che il pagamento è tra le clausole, non è tra i vincoli. Il vincolo, ce ne sono altri due oltre a quello degli enti dividendi, che riguardano innanzitutto il fatto che i finanziamenti devono essere investiti solo negli stabilimenti italiani. Chi ha stabilimenti all'estero deve, quei soldi che prende possono essere usati solo per gli stabilimenti italiani. È una norma forte ma necessaria in questo momento per tutelare il nostro tessuto produttivo. E la seconda, ma riguarda le aziende un po' più grandi, che chi dovesse avere problemi di riduzione del personale lo deve fare con l'accordo, con gli accordi sindacali. Ma sottolineo soprattutto quella dell'investimento sui stabilimenti italiani. Ovviamente ci potranno essere aziende che hanno stabilimenti all'estero e quindi si chiedono come fare, però è chiaro che in questo momento c'è un bisogno di tutelare il tessuto produttivo interno. Maria. Sottosegretario, c'è un problema anche di criminalità organizzata, un problema che altri paesi non hanno ma che l'Italia invece ha e col quale si deve confrontare. Alcuni ascoltatori ce lo chiedono e abbiamo visto che almeno per quanto riguarda la richiesta dei 25.000 euro non serve nemmeno la dichiarazione antimafia. Vi siete posti il problema di come eventualmente la criminalità organizzata possa cercare di ottenere con le aziende di cui dispone aiuti statali? Sì, ce lo siamo posti, però abbiamo valutato la situazione di emergenza e anche la domanda fortissima degli imprenditori. Ci appuntiamo sul fatto che la stragrande maggioranza degli imprenditori sono onesti, anzi questi finanziamenti che gli vengono dal circuito regolare li possono tutelare dal rischio che invece ci fosse un mercato dei finanziamenti paralleli. Uno dei problemi che potevamo avere è che se non agivamo subito noi ci poteva essere finanziamenti da un mercato illegale gestito appunto dalla criminalità. Quindi noi invece offriamo agli imprenditori, ovviamente soprattutto a quelli piccoli che sono più esposti, un circuito regolare, un circuito pubblico finanziato dallo Stato, quindi questo è anche un primo deterrente. In secondo luogo, per le questioni più complesse, abbiamo rafforzato la Golden Power, perché diciamo questo non riguarda esclusivamente la criminalità, ma tutto può succedere. Le aziende italiane fanno vola in un momento così difficile, potrebbero essere oggetto di incursioni di vario tipo, e quindi abbiamo rafforzato il potere del governo di stoppare offerte o passaggi di proprietà e controlli che siano considerati da noi Sottosegretario, non molto rapidamente, mi fa capire come si ferma l'ipotesi che una grande banca italiana, una grande assicurazione italiana passi nelle mani di un paese europeo, perché l'Europa finora queste cose non le accettava, no? C'era una procedura per chi impedisse i passaggi all'interno dell'Unione Europea. Ora poniamo che una grande banca italiana sia oggetto delle mire di un paese europeo. Come farà lo Stato italiano a impedire che questo avvenga? Semplicemente con un intervento legislativo che è già legato alla Golden Power precedente, impedisce il passaggio di proprietà, non lo avvalora, e ovviamente qui è chiaro che avremo qualche conflitto anche sovranazionale, ma non è il momento di sofisticare, bisogna essere molto netti nella tutela del nostro patrimonio. Abbiamo tempo per un'ultima telefonata. Massimo dalla provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Prego. Le mie domande sono due fondamentalmente. Una le parlo da professionista, commercialista. Stiamo operando in pieno per dare attuazione alle provvidenze del decreto legge 18. Non ci sta bene però che siamo messi in termini di contributo alle nostre attività all'articolo 44, cioè nel reddito di ultima istanza. Vorremmo lo stesso trattamento previsto per gli altri lavoratori autonomi e dipendenti. Abbiamo dipendenti, strutture da mantenere, identico e preciso. E una seconda domanda. Io sono anche imprenditore agricolo e qui produciamo oltre il 30% dell'olio extravergine in Italia, d'oliva. Non troviamo giusto, le parlo a nome delle aziende agricole, abbiamo i soldi per pagare il personale, le lavorazioni. Perché non viene erogato il contributo, la cosiddetta integrazione, saldo 2019 e acconto 2020, come era stato annunciato. Abbiamo bisogno. Allora, non so, allora sul primo punto immagino che Baretta possa rispondere, sul secondo non so se ha il dettaglio. Baretta, però, prego. Qual era il primo punto, scusi? Il primo punto è volevano, insomma, dice come commercialisti, dice vorremmo essere trattati. Sì, no, prego. Guardi, il trattamento è uguale. Ci sono due categorie. Quelli iscritti alla parte gestione separata dell'INPS e quelli iscritti alle casse di previdenza. Tutte e due hanno avuto i 600 euro, tutte e due avranno gli 800 euro perché li portiamo da 600 a 800. Quindi la differenza è solo formale, ma il risultato è analogo. Per quanto riguarda l'altra risposta, è chiaro che il problema della manodopera agricola diventerà un problema nelle prossime settimane, perché dobbiamo raccogliere la produzione agricola e quindi dovremo pensare a delle forme anche di facilitazione dell'utilizzo del personale. I voucher sarebbero stati perfetti, però sono saltati. Sì, personalmente non impegno nessun altro che me stesso, sono convinto anch'io che i voucher erano e sarebbero in questo momento utili, bisognerà trovare forme analoghe, non si può lasciare in sospeso. Se sottosegretario, cosa pensa della proposta di Giorgia Meloni di far lavorare nei campi chi percepisce il reddito di cittadinanza? Ma io sono abbastanza disponibile, non tanto chi reddito di cittadinanza, tutti coloro che hanno avuto una sovvenzione pubblica possono essere utilizzati in situazioni di pubblica utilità, chiamiamola così, perché anche raccogliere quello che c'è nei campi in questo momento di pubblica utilità. Lo farei non con uno spirito di rivalsa su un provvedimento o ad un altro, lo farei proprio con l'idea che abbiamo bisogno di personale, chi ha sovvenzioni pubbliche può, per me non avrei obiezioni al fatto di utilizzarlo se serve in situazioni di emergenza. Allora, grazie a Pierpaolo Baretta, sottosegretario dell'economia, per essere stato con noi, e grazie anche ad Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto, immagino che ci siano quantità di pagine in preparazione esattamente per rispondere ai nostri ascoltatori su domani, eh? Beh, assolutamente sì, è evidente che i quesiti da evadere sono tantissimi. Bene, Alberto, grazie e buon lavoro. Ed è con noi proprio Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Buongiorno Meloni, bentornata. Salve, grazie, buongiorno a tutti. Eccoci qua, Maria. Buongiorno, intanto ha sentito il sottosegretario Baretta che ha accolto quella che è un vostro suggerimento, visto l'emergenza nei campi, chiedere una mano a chi una mano ha ricevuto dallo Stato, cioè i percettori di reddito di cittadinanza. Soddisfatta della risposta del sottosegretario? La risposta del sottosegretario è una risposta di disponibilità, purtroppo quella stessa disponibilità finora non l'abbiamo vista nella cabina di regia che, come sapete, ci sta impegnando da qualche giorno tra il governo e opposizione per cercare di capire se c'è la possibilità di arrivare a un testo più condiviso sul decreto Cura Italia. Io devo dire la verità, dopo giorni in cui tutte le nostre proposte vengono respinte, prima ci hanno detto che non potevano accogliere le proposte che prevedevano, diciamo così, una modifica di saldi, no? Quindi maggiori spese perché non c'erano i soldi, e vabbè. Poi però hanno cominciato a non accogliere neanche tutte le altre per ragioni, tra virgolette, ideologiche, cioè non le condividono, e allora la cosa diventa un po' difficile. Io ieri ho deciso di ritirare i 168 emendamenti di Fratelli d'Italia, che in ogni caso, vi chiudo parentesi, non erano ovviamente in un momento come questo presentati con intento ostruzionistico, cioè per intenderci erano pochi di più di quelli che ha presentato Renzi dalla maggioranza, per cui questioni di merito, ma ne abbiamo ritirate, ne abbiamo lasciati solo 20, che sono, tra cui c'è per esempio questo sull'utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza non solo per coltivare i campi ma anche per esempio per portare la spesa agli anziani a casa che non possono farlo, e ci sono una serie infinita di altre proposte, tutte a mio avviso di buon senso, quasi tutte a costo zero. E su quelle chiedo al governo di dare delle risposte e gli italiani poi le valuteranno. Io adesso le rendo pubbliche tutte e 20 e vedrete che sono per lo più questioni anche di, come posso dire, di cambio di paradigma culturale, no? Nel senso, a me pare che il governo in questa fase stia, per esempio, facendo la guardia bianca della burocrazia. Su Italia è tutto bloccato, l'unica cosa che non si riesce a bloccare è la burocrazia. Abbiamo chiesto proprio nei confronti delle imprese una serie di cose semplici, tipo la sospensione degli ISA, la sospensione del tetto al contante, l'abolizione per ora del minimo contributivo per artigiani e commercianti. Mi pare che uno che potrebbe fatturare zero in quest'anno debba dare 3.500 euro all'INPS. A me non pare una cosa normale. Abbiamo chiesto di non utilizzare l'obbligo di contrattazione sindacale per accedere alla cassa integrazione, perché è una perdita di tempo e perché purtroppo anche questo ha un costo, perché poi le pratiche i sindacati te le fanno pagare oppure devi iscrivere gli operai al sindacato. Mi pare normale in un momento come questo? Questi sono gli emendamenti che abbiamo lasciato, più o meno, poi c'è quello sulle rette scolastiche, ci sono anche qualcosa, diciamo, di più sostanzioso sul piano del costo. E vediamo il governo che fa. Noi la nostra disponibilità l'abbiamo data dall'inizio, per ora devo dire da parte della maggioranza non ne ho vista molto, forse anche per i loro problemi interni, non lo so, però che possiamo fare? Senta, Meloni, nel complesso la dimensione dell'intervento che è stato varato ieri e anche l'articolazione, per come la conosciamo al momento ovviamente, non abbiamo ancora tutti i dettagli del decreto, la soddisfa oppure no? Guardi, il tema della liquidità delle imprese è sicuramente una priorità assoluta e quindi io sono convinta che vada affrontata e che vada affrontata con potenza. E io, se devo leggere i titoli di giornali, il provvedimento lo considero interessante, però lei sa, Spezia, quando si parla di queste materie, è andato via il vice direttore del Sole, lo saprebbe meglio di noi, una virgola ti cambia tutto il provvedimento, no? Quindi io devo vedere i testi. Un decreto attuativo lo cambia ancora di più, tra l'altro, però prego. Esattamente, però insomma, comunque devo vedere il testo, perché per esempio io ho avuto da parte di moltissimi imprenditori, cioè, ci hanno posto il problema della garanzia al 100% da parte dello Stato, non tanto per avere la garanzia dello Stato, ma per un problema anche qui procedurale. Se tu hai una garanzia anche solo al 90%, questo vuol dire che la banca deve aprire un'istruttoria. Se le banche si mettono ad aprire le istruttorie, i soldi non arrivano mai, cioè non arrivano mai rispetto ai tempi in cui ne abbiamo bisogno. Per cui, vede, ci sono cose che sulla carta uno dice, vabbè, ma alla fine no, non mi pare così dirimente, 90% o 100% invece poi lo è. Quindi noi valuteremo il decreto nel merito, come abbiamo fatto dall'inizio. Del resto sapete che abbiamo votato i decreti, abbiamo votato lo scostamento, abbiamo votato i decreti precedenti. Insomma, quando abbiamo condiviso, abbiamo fatto del nostro meglio per dare una mano, così stiamo facendo su Cura Italia, a maggior ragione così faremo sul decreto di liquidità delle imprese. E speriamo che di tanto in tanto qualcuna delle nostre proposte di buon senso venga accolta, insomma, perché ci pare che anche guardandoci indietro poi le nostre proposte non siano state così pretestuose. Molto spesso il governo è arrivato esattamente alle stesse cose che proponevamo. Allora, a ieri, proposito, ieri, Meloni, dico solo questo, Meloni, Maria, chiedo scusa, dico solo questo perché ci tengo. Ieri il governo ha messo nel decreto sulla liquidità il tema dell'estensione della Golden Power, cioè della difesa delle aziende strategiche. Chiedere. Ah, perfetto, grazie. Allora ci siamo lette nel pensiero. che è secondo me un tema importantissimo, estensione della Golden Power anche verso i paesi dell'Unione Europea, cosa che è previsto che si possa fare per un anno. Noi avevamo depositato la proposta il 5 di marzo, un mese fa, e secondo me il governo anche, diciamo, ci è arrivato molto tardi, tant'è che all'ultimo incontro ho chiesto: ma perché perdete tutto questo tempo? Però, per dire, è una delle tante proposte che avevamo fatto già un mese fa, così come ho visto Conte contento perché l'Unione Europea ha stabilito l'utilizzo dei fondi europei senza cofinanziamento e senza condizioni, ed era un'altra cosa che proponevamo più di un mese fa, per cui insomma abbiamo dall'inizio cercato di dare un contributo serio. Senta, Meloni, è proprio questo il punto, no? Vede che si parla di ripartenza e di fase 2, ma ci sarà una fase 2 anche per il lavoro del governo, visto che alcune delle proposte di Fratelli d'Italia mi sembrano essere condivise dal provvedimento Cura Italia. Lei citava Golden Power, abbiamo sentito il sottosegretario Baretta dire: beh, per quanto riguarda il lavoro nei campi o comunque le emergenze, sarà necessario che chi ha avuto una mano dallo Stato la restituisca. Quindi mi sembra che ci sia un modo di accogliere anche i vostri suggerimenti. Perciò le chiedo, a questo punto, proprio perché la situazione sarà economicamente molto difficile, molto drammatica, fino a che punto spingerete il vostro rapporto di collaborazione col governo? Perché vi siete incontrati insieme a Tajani e a Salvini col Premier Conte per concordare le misure per sostenere il paese. Ci saranno altri incontri? Come giudica questa interlocuzione in corso? Guardi, allora, sull'interlocuzione più o meno le ho già risposto, nel senso, per ora la considero francamente abbastanza insufficiente, nel senso che noi ci vediamo, ma poi purtroppo diciamo di quello che proponiamo molta poca roba arriva. Diciamo, a Dama, parlavamo del decreto Cura Italia, io ho ritirato tutti i miei emendamenti e ne ho lasciati 20, perché fino a ieri qualunque proposta noi abbiamo messo sul tavolo ci è stata respinta, per cui diciamo incontrarsi è molto bello, siamo contenti di parlarci, ma insomma nessuno in questo momento ha bisogno o voglia di perdere tempo, men che meno il governo, per cui noi la nostra disponibilità non nei confronti del governo, ma nei confronti dell'Italia è estrema. Faremo fino all'ultimo di questa emergenza tutto quello che possiamo fare per dare una mano. Purtroppo mi pare che finora questa disponibilità non venga pienamente accolta. Speriamo che la situazione cambi. Se ci dobbiamo rivedere, ci rivedremo. Io tutte le volte sono stata chiamata, sono andata, ho detto quello che pensavo, ho offerto le mie proposte, addirittura abbiamo mandato al ministro Gualtieri sul Cura Italia le proposte già scritte sotto forma di emendamento perché non ci dovessero perdere tempo. Io non so che cos'altro dobbiamo fare. Certo, quando poi a fronte di questa disponibilità vedo il presidente Conte che va in televisione e dice che le nostre proposte sono pretestuose, diciamo un po' mi interrogo, no? Perché io non so cos'altro si possa fare, sinceramente, per dare una mano. Senta, Meloni, come si pone di fronte al grande tema chiese aperte a Pasqua? Ma guardi, noi abbiamo depositato degli emendamenti su questo tema, sulla diciamo possibilità che si chiudessero proprio anche le, al di là delle messe, che si chiudessero proprio le chiese, ma abbiamo chiesto la possibilità appunto di poter implementare la celebrazione delle messe anche da remoto, abbiamo chiesto la possibilità anche di dare la possibilità ai fedeli per quelle realtà che sono in grado di mantenere chiaramente le regole, le distanze, insomma estremamente la sicurezza, anche di poter diciamo così tenere aperto, però diciamo non penso si possa fare molto di più, ecco, mettiamola così, perché questa è una fase. Quindi nella lei, quale insomma, noi Non condivide l'appello che Matteo Salvini ha lanciato sabato scorso all'intervista di Sky? Francamente non l'ho, come posso dire, non ho capito esattamente lui di che cosa parlasse, di tenere le chiese aperte in che senso, di fare le messe, non fare le messe, questo a me non è chiaro. Certo, in questa frase penso ci rendiamo conto tutti del fatto che da una parte noi abbiamo bisogno di, e speriamo anzi, di riaprire il prima possibile, tutto quello che possiamo riaprire, dall'altra non dobbiamo assolutamente vanificare gli sforzi che abbiamo fatto finora, signori, perché noi ci siamo mangiati qualche decina di miliardo di euro, abbiamo bruciato qualche decina di miliardo di euro in queste settimane, e quindi direi che non è il caso di vanificare adesso gli sforzi. È duro in particolare quando arrivano, ecco, le festività, quando arriva la Pasqua, quando la pasquetta, quando vorresti portare i bambini a fare il picnic. Io capisco bene, una bambina di 3 anni e mezzo, però diciamo, non vanifichiamo gli sforzi adesso, quindi quello che va fatto è che soprattutto ci devono dire gli esperti, perché poi io posso dire fino a un certo punto, se non ho un virologo che mi dica che cosa devo fare, fermo restando questo, penso che però sia importante lavorare da ora per stabilire i termini e le modalità della riapertura per essere pronti appena possiamo riaprire. Una strategia per la famosa fase 2, cioè sì, quantomeno si disegni la strategia, ecco, per così dire, insomma. Esattamente. Marco da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Prego, rapido. Un saluto all'onorevole Meloni. La mia domanda era rivolta più che altro al sottosegretario che era in linea che prima. Non c'è più, che però non c'è più. Perché io appartengo alla categoria degli ottici. Col decreto del 5 marzo potevamo tenere aperti i negozi, però io volontariamente ho chiuso per salvaguardare la salute mia, dei dipendenti e poi anche perché clienti non ce n'erano. Questo è bello da parte sua comunque. E poi? Ho fatto domanda tramite il commercialista per il contributo affitti del 60%, mi hanno detto che essendo parte di quelle categorie che potevano tenere aperte, non ho diritto ad avere il contributo sull'affitto. E immagino che non sarà il solo caso, Meloni, forse bisognerà intervenire anche su questi casi, gente. Penso che... assolutamente di sì, perché comunque ci sono quelli che hanno chiuso per decreto e ci sono quelli che hanno chiuso perché di fatto la condizione non consentiva di rimanere aperti. Tra questo, tra l'altro, le aggiungo un'altra cosa. Noi dall'Italia, proprio perché si parla di riapertura, perché è un tema che secondo me riguarda anche la riapertura della fase 2, diciamo, noi lavoriamo dall'inizio, un'altra delle proposte storiche di Fratelli d'Italia in questa materia, sul tema della sanificazione dei posti di lavoro. Perché vede, sarebbe stato più facile per molti esercizi e per molte realtà, per molte fabbriche che potevano rimanere aperto se ci fosse stato una quotidiana sanificazione, come è accaduto in altre nazioni, di tutti i luoghi di lavoro, e probabilmente il contagio non si sarebbe esteso così se ci fosse stata la sanificazione dei mezzi pubblici o degli spazi pubblici. Questa è una proposta che noi facciamo dall'inizio. Il governo l'ha derubricata, è una di quelle cose che neppure Italia hanno fatto finta di accogliere, ma in realtà ha un credito d'imposta, cioè in pratica se io imprenditore faccio la sanificazione poi forse mi scaleranno da età. Cioè, francamente, non era questa dovrebbe essere diverso. Dobbiamo veramente chiudere. Grazie a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Buona Maria. Giornata, Meloni. Maria, ci sentiamo domani 8:20. 8:20 a domani. Ciao Simone, ciao a tutti. Con tutti gli altri ascoltatori alle 6:30. Ciao.